Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Buongiorno, avete appena sentito una clip della colonna sonora di Interstellar, un film del 2014 di Christopher Nolan e soprattutto uno dei film più affascinanti che sono mai stati fatti sul tema dello spazio. Confesso che io, quando l'ho visto, ho pianto. Lo spazio affascinante, e tutti noi lo viviamo come qualcosa di futuribile, di remoto, una roba di futuro remoto. Eppure lo spazio è a portata di mano già oggi, e pensate, in prima fila nelle iniziative per andare nello spazio ci sono aziende manifatturiere italiane, aziende che rappresentano quella manifattura di eccellenza che noi in questa trasmissione vogliamo raccontare, vogliamo difendere, vogliamo propagandare, e che rappresenta anche, scusate la parentesi personale, la motivazione del mio lavoro giornalistico degli ultimi anni. Ecco, un'azienda come Alenia, che comunque, anzi Alenia Teis, che comunque è una grande azienda, si serve di molti piccoli fornitori italiani che sono in possesso di tecnologie di eccellenza. E ci sono anche aziende di 10, di 20 milioni di euro di fatturato che sono in grado da sole di sviluppare brevetti, innovazioni che poi vengono adottati da Alenia Teis e anche da grandi colossi anche in giro per il mondo. Una di queste aziende, che è tra gli ospiti di oggi, si chiama Cryotech e realizza impianti per produrre il freddo assoluto, una cosa affascinante, anche meno 200 o meno 230 gradi, vicini ad arrivare allo zero assoluto. Cryotech e Tratos sono le due medie imprese che sono protagoniste della puntata di oggi, che è dedicata al tema delle medie imprese di eccellenza, che sono poi quelle che mandano avanti l'Italia. Ecco, Italia che sta andando veramente meglio, e poi ci sarà una scheda su uno studio fatto da Intesa San Paolo e Prometeia che dimostra che è questo tipo di manifattura che sta crescendo, ed è a questo tipo di manifattura che noi dobbiamo la nostra ripresa. Ma entriamo in res, parliamo di Cryotech. Ecco, introduco il suo amministratore delegato, che è Guido Roveta. Buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Allora, voi che cosa fate per Alenia Teis? Facciamo dei test su degli scambiatori che sono l'involucro di un satellite, e che servono per condizionare il satellite, cioè captare il caldo quando il satellite, la parte del satellite che è girata verso il Sole, e il freddo verso la Luna. Ah, interessante, perché quindi voi riproducete il freddo assoluto che c'è nello spazio. Esatto, questa camera è in grado di raggiungere all'interno, oltre a un alto vuoto, a un 10 alla meno 7 millibar di pressione assoluta, è in grado di raggiungere anche temperature di meno 200 gradi circa e più 150, in modo da poter fare delle ciclature termiche, che sono quelle che avvengono poi nello spazio. E come nello spazio? Che temperatura c'è? Ebbene, nello spazio, a seconda dell'altezza dello spazio, a seconda di quanto siamo distanti dall'asse terrestre o dalla superficie terrestre, la temperatura scende continuamente. In effetti, quando viaggiamo su un aereo, la temperatura, dicono, esterna è meno 50, ma quando andiamo oltre l'atmosfera arriva fino a meno 200 gradi. Ecco, però lo zero assoluto è meno 273 gradi, giusto? Esatto, sì, lo zero assoluto, che è una temperatura praticamente non raggiungibile, perché tutta la materia è ferma, cioè tutti i neutroni sono fermi, insomma, diciamo, un fisico direbbe che la materia è ferma, ed è lo zero Kelvin. In effetti la temperatura assoluta viene misurata in Kelvin, che parte lo zero parte a meno 273 gradi. E quando si raggiunge lo zero assoluto, la materia si ferma. E esatto. Quindi il vostro coinvolgimento nel progetto per la fusione nucleare è proprio quello di creare quello zero assoluto per contenere le altissime temperature che si sviluppano per la fusione, giusto? Ma in realtà il contenimento di questa temperatura avviene tramite un campo magnetico, un forte campo magnetico, creato o realizzato questo campo magnetico tramite dei magneti superconduttori che creano proprio questa forza magnetica che confina il plasma, che raggiunge 100 milioni di gradi, quindi non potrebbe toccare nessun materiale senza distruggerlo. Ecco, ricordo ai nostri ascoltatori che la fusione nucleare e tutto l'indotto che crea per le industrie attuali e soprattutto per le industrie future saranno uno degli imperativi categorici, uno degli argomenti fondamentali di questa trasmissione. Noi siamo in un mondo in cui stanno per cambiare radicalmente i paradigmi. Le auto saranno tutte elettriche, qualcuno l'ha deciso, e la vera energia pulita del futuro è quella della fusione nucleare. A noi piace tanto compiacerci con le pale eoliche e con i pannelli solari, ma comunque questi rappresenteranno sempre una parte minima. L'energia nucleare, sia quella generata dalla fissione, che ancora funziona e che ha permesso alla Francia di diventare un grande campione, ma soprattutto in futuro l'energia da fusione, sono la vera risposta ai bisogni dell'umanità. Voi pensate che nel 2030, nel 2040 avremo auto che vanno ad energia elettrica e la maggior parte di queste auto saranno alimentate da energia generata da fusione. Quindi pensate che cosa vorrà dire questo per i paradigmi geopolitici, che cosa vorrà dire per il petrolio, quali nuovi scenari ci attendono. Ecco, a questo proposito io vorrei invitare chi ci ascolta a scrivere a fabbrica@radio24.it. Le email più interessanti verranno lette e ci sarà una risposta. Che cosa ne pensate dunque? E poi scriveteci anche che cosa ne pensate dell'avvento dei robot e dell'intelligenza artificiale. Lei, Rovetta, che cosa ne pensa? Arriveremo a un mondo alimentato a fusione? Ma io credo sia l'energia del futuro. Probabilmente servono ancora un po' di anni per arrivare a questo, perché l'impianto che attualmente si sta realizzando in Francia, a cui noi partecipiamo con diversi lavori, anche con il consorzio ICAS, dove... Ecco, ne parliamo dopo. Mi dica, quindi lei crede che sia l'energia del futuro, però adesso ci dobbiamo interrompere per avvisi sul traffico e pubblicità. Restate con noi. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta Fabbrica 2.4. Ecco ancora Interstellar, parliamo ancora di spazio, parliamo ancora di futuro, parliamo di aziende impegnate in progetti per la fusione nucleare. Ecco, mi dica Rovetta, ma voi avete queste tecnologie molto importanti, siete alle porte di Torino, dove esattamente? Siamo a Chivasso. In quel di Chivasso. Chilometri da Torino. Con 12 milioni di euro di fatturato, come fate a sviluppare queste tecnologie qua? Un'esperienza che risale, diciamo, la credo ormai a 28 anni o 29 anni quasi di esperienza, oltre alla mia esperienza legata alla criogenia, che va quasi a raggiungere il prossimo anno ai 50 anni di lavoro. Ma quindi la massa critica non è non è fondamentale, non è fondativa la massa critica in termini di volumi per poter disporre di tecnologie di eccellenza? No, direi di no, anzi forse proprio perché siamo una piccola azienda che riusciamo a fare anche tutto sommato molta ricerca nel limite delle nostre possibilità. Perché proprio perché siete una piccola azienda? Perché una piccola azienda è costretta a ricercare, costretta a... Non potete dormire avanti sugli allori, no, possiamo perché gli allori non li avete. Ahimè no, ahimè se si sta fermi automaticamente si va indietro. E quindi bisogna far fronte ai paesi emergenti che ci stanno soffiando sul collo e dobbiamo muoverci per poterli combattere in tecnologia, perché in quanto ai costi non li combatteremo mai e quindi siamo costretti a essere competitivi su questo. Esatto. Ecco, e qui volevo dire un'altra cosa importante. Si leggono tante sciocchezze e stupidità sui robot che portano via il lavoro. Ecco, spero di non ricevere email in questo tempo, dicendo questa fesseria, perché se no vengono lette e viene sottolineato che cosa dicono. Però non sono i robot che ci portano via il lavoro, è un'istruzione inadeguata, è una specializzazione poco competitiva e soprattutto manodopera, ragazzi, con un'istruzione inadeguata. Bisogna lavorare sull'istruzione. Adesso lancio una breve scheda sugli ultimi dati di Intesa San Paolo, Prometea e Istat sulla ripresa che diventa più robusta, soprattutto grazie al manifatturiero. I ricavi manifatturieri nel 2017 cresceranno del 2,3% in valori costanti e del 4,3% in termini correnti, traducendosi in 36 miliardi di euro in più per le casse delle aziende. Un bilancio rassicurante, notevolmente superiore allo scorso anno, quando il progresso nei ricavi industriali si limitò ad appena 6 miliardi di euro, lo 0,7% in più. Lo afferma uno studio realizzato da Intesa San Paolo in collaborazione con Prometeia e raccontato in un dettagliato articolo di Luca Orlando sul Sole 24 Ore di qualche giorno fa. La crescita decisa dei ricavi dell'industria italiana certifica la forza della ripresa, finalmente consolidata dopo un lungo periodo di stop and go, scrive Orlando, che prosegue. Indicazioni che si traducono in ottimismo crescente per imprese e famiglie, che anche a ottobre evidenziano un progresso nei propri indici di fiducia. Certo, mancano ancora 58 miliardi per raggiungere i livelli del 2008, cioè di prima della crisi, ma ormai l'industria italiana sembra correre e non doversi fermare più. Le prospettive dell'industria restano favorevoli anche nel prossimo biennio, con crescite delle vendite a prezzi costanti nell'ordine del 2%, grazie a esportazioni, più 3,4%, che manterranno un tasso di progresso doppio rispetto alla domanda interna, comunque stabilmente positiva. Il comparto industriale con i numeri più brillanti è quello dell'automobile, per la quale è previsto un incremento del 7,8% nel 2017 e del 2,8% nel 2018. Segue la meccanica, con una crescita attesa del 3,1% quest'anno e del 3,3% l'anno prossimo. I prodotti in metallo cresceranno invece del 2% nel 2017 e dell'1,8% nel 2018. Bene, anche sistema moda, chimica, farmaceutica, prodotti e materiali da costruzione. Le imprese non sono però le sole a sorridere, con l'indice di fiducia dei consumatori segnalato dall'Istat in progresso per il quinto mese consecutivo, il massimo a quota 116,1 da gennaio 2016. Rieccoci in linea, parliamo sempre di medie aziende, adesso è il turno di Albano Bregagni, che è il titolare della Tratos. Abbiamo già avuto ospite questa azienda nella puntata passata, perché parlavamo di fusione nucleare e del consorzio ICAS. Io sono rimasto affascinato perché loro con 130 milioni di euro di fatturato in un paese alle porte di Arezzo, mi ricorda come si chiama? Pieve Santo Stefano. A Pieve Santo Stefano sono nei cavi ad altissima specializzazione, sono l'unica azienda italiana rimasta e il concorrente a un colosso mondiale come la Prysmian. Ma com'è possibile questo, Bregagni? Come ho detto prima Rovetta, con un piccolo particolare che le dico, per esempio nella superconduttività, noi Cryotech, appoggiandoci all'Enea, abbiamo fatto una volta tanto sistema, ognuno specializzato nella sua parte di costruzione, abbiamo tirato fuori quello che è stato un grande cavo per la fusione nucleare, che vi ricordo non è un fine ma il mezzo, perché solamente a quelle temperature lì funzionano i cavi superconduttori. Ecco, a noi la fusione nucleare piace moltissimo, ci piace anche la fissione e anche l'energia nucleare, ma questo è un altro discorso. Ma a parte questo, voi fate sia i cavi per l'alta tensione per la trasmissione di energia e anche i cavi per la trasmissione di dati, ma come si fa con un fatturato che è quasi un centesimo quello di Prysmian a fare concorrenza a Prysmian? Ma ascolti, a parte gli ottimi rapporti e la stima infinita che abbiamo di Prysmian, ci facciamo valere con i prodotti che non sono, dove siamo presenti, inferiori ai loro, e Prysmian è diciamo il massimo esponente mondiale, poi c'è Nexan, ce ne sono tanti, però riusciamo a farci valere con l'apprezzamento dei nostri clienti. Lei può chiedere a tutti gli operatori italiani chi è Tratos e vedrà che lo sanno dire, sia operatori di energia elettrica sia operatori di trasmissione. Senta, anche l'azienda è stata fondata dal suo suocero, vero? È stata fondata dal mio suocero nell'anno 65-66, sa, quando si parte c'è sempre l'indeterminazione tra quanto si mette la prima pietra e quanto si fa la prima fattura. Io sono là dal 1974, quindi ho compiuto abbondantemente i 43 anni di lavoro, insomma. E quindi lei ha fatto una sorta di buyout, perché quando è morto suo suocero, le quote erano di sua moglie e lei ha rilevato le quote degli altri soci che sono usciti. Sì, praticamente mia moglie aveva un 50%, che anche molto, un 51%, però molto condizionato, e poi esattamente il 2 novembre del 1979, la mia tenera età di 28 anni, riuscimmo, con l'aiuto naturalmente di mia moglie e di mia suocera, che fu determinante perché mi dice sempre di sì, bene, a organizzare un leverage buyout, per cui per la piccola cifra, e allora non era piccolissima, era molto importante per me, di 780 milioni, riuscimmo a comprare la parte dei soci mettendo il pacchetto di mia moglie a garanzia della banca che scelto dell'operazione. Una banca che adesso fanno parte tutti per l'appunto di Intesa San Paolo, perché erano allora la Cassa di Risparmio di Firenze e la Cassa di Risparmio di Città del Castello. E poi vi hanno mai offerto di comprare l'azienda? Sì, è successo in un paio di occasioni, però ricordo la prima, è successo nel 92-93, qualcosa di questo genere, ci offrirono una cifra allora estremamente importante, bene, e ne parlai a casa in famiglia, per il consiglio direttivo, che era mia moglie e mia suocera, diciamo così, la suocera mi dice, dopo che ne fai i soldi? E continuo a lavare i piatti, e così finì la trattativa. E quindi voi siete l'unico cavo made in Italy. Senta, ma voi avete una partnership con Finmeccanica per la guida d'onda dei siluri? Sì, noi forniamo a Finmeccanica le guide d'onda di siluri in fibra ottica, diciamo per sistemi di difesa. Diamo sia la fibra ottica che i sistemi di trasmissione per portare a spasso il siluro per il mare per decine e decine di chilometri. Ma come fate a competere rimanendo in un paese alle porte di Arezzo, soprattutto ad assumere gente che poi deve trasferirsi lì e magari qualcuno che potrebbe pensare di andare a vivere a New York o a Londra e deve venire a Pieve Santo Stefano? Allora, senza tanta filosofia le posso dire che 8 chilometri a oggi di noi c'è nato Michelangelo, 10 chilometri a sud c'è nato Piero della Francesca, quindi ci lasci un po' il vizio di essere un po' artisti, insomma. Ecco. Quindi, nonché Fanfani e Licio Gelli. Fanfani è nato proprio a Piero Santo Stefano, Licio Gelli non è nato ad Arezzo ma è nato a Pistoia, quindi anche se io non avevo niente contro Licio Gelli, io dico subito. Senta, ma lei è il sindaco di Piero Santo Stefano anche? Io sono il sindaco al sesto mandato. Ma certo, perché gli abitanti sono i suoi dipendenti, come fanno a votare per un altro? No, ci provi lei. Aspetti, dobbiamo chiudere, però la conversazione con Bregagni continua in un contenuto speciale che potrà essere scaricato dalla pagina di Fabbrica 2.4 sul sito di Radio 24. Ricordo che aspetto le vostre lettere fabbrica@radio24.it. Viva le fabbriche, viva l'acciaio, viva i robot, viva l'energia nucleare. Buon sabato a tutti e seguiteci ancora sulla pagina del programma.